Quando scrivo ti fa schifo, ti fa il tipo. Tipo toppi se mi intrippo, spacco il popo al tuo rapper che fa il tipo vivo. Tenendo l'argomento, sono onesto, metto cuore e sentimento. Non mi pento, fra lo stesso. Non mento né mi invento e lascio un gesto. E non sento che sto tonto fa spavento nel suo testo. Io resto sotto il pezzo e fatto la scrivo tutta. Tu resti solo fatto dal fatto che sei la frutta. Due metri sotto terra, sei street in strippo. La tua tipa sotto quello fa lo strip. Dice che è un vizio, che cazzo è sto tizio. L'origine al marraglio, che in macchina per sbaglio. Bomba Gigi Vinizio, zero fazio, figlio del vizio. Skiller e screzio, hai sbagliato indirizzo. Busta e prezzo, cassa fuori servizio. Frusta il pezzo, per te io non ho spazio. Quando questa cade sotto fuori la gara, fonte gara. Sottofondo è garantito che Juan Garen si prepara dalle combo sopra il micro. Se ti fondo in un secondo con l'affondo preferito, fondo a fondo non so combo ma c'è un dolo da fallito. Ha intuito che c'è cacato il cazzo, hai tradito, pagato dritto e smazzo. Un mazzo tanto mi incazzo e canto, ammazzo a tempo e ragazzo tutto finito. Rip, arto, free, risalto le skills, l'impianto e rimpianto del vanto. Ricalco ogni palco e ribalto un zappil. Potenza d'assalto sul mic adamantio, dentro un corpo X-Men. Questo brand con più slang della gang che fa bang nella West come Chris. Lasciando questa chiuder sotto fionda e gara, forte gara. Corrono concetti come scorre in vista uno sbronzo. E ti pensi in un reality show, ehi, ti senti strong, eviti il ring, ti difendi con ridicoli slang. Ascolti il rom, e posti in come e molti fan, fasti e molti blame, blame, dove? Ho scelto il rap senza la pila, con l'impasto e la saliva. Ho perso anche comitiva. Come sono questa figa, no, non sono poi cattiva. Ho fatto a botte con chi amo, mi hanno spinto, la foto è richiamo del suono che mi ha dato luce dentro l'anima, del sogno che realizzo che vedevo come Fatima. Quando questa chiude sotto fonda gara, fonda gara. Cercavi io giacero, sei in collera col clero. Se ti tollera il mio sclero, sei uno zero come un sì, non sei vero. Sei una figa, sei di figa, io in un treno pieno che ti porta verso l'estremo. Scendi da sto vero scemo che ti credi al top, tanto che è uno shock vederti fare flop come Candy Candy dentro un sexy shop. Qui no body rock, stai meglio nel porn, puntato dat comere. Fighe di legno credono alle favole, l'oro di Eldorado, comandamenti delle tavole. La mia furia di un tornado è una collabo, si nasconde nelle casse come matriosche nelle scatole, al bar ordino il solito. Manga tonito, vedo qualche amico e 5 ore che alza il gomito. Insulto pure il fonico, urla pure le tue rime. Tanto sono un conato di vomito. Quando questa chiude sotto fondo è gara, fonte gara.